1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:20 minuti, pronti a leggere i giornali che anche oggi propongono svariate notizie nelle quali cercheremo di addentrarci, cari ascoltatori. Vi ricordo che oggi parleremo di immigrazione. Ieri questo dato uscito dai giornali, una ricerca che fa capire che l'immigrazione, gli immigrati sono una ricchezza, si parla proprio di soldi, quanto abbiamo speso per loro e quanto loro versano in tasse. Ne parleremo con un candidato alla segreteria, succede a Roberto Maroni per la Lega, Manes Bernardini, che tra l'altro è responsabile nazionale per l'immigrazione per la Lega Nord. Ne parleremo con Guido Bolaffi, esperto di immigrazione, e con altri ospiti, questo dalle 8:15, ed ora andiamo appunto a sfogliare i giornali. È venerdì 15 novembre, i titoli intanto. Il Sole 24 Ore apre su Alitalia, no di Air France all'aumento di capitale, questo è il titolo di prima pagina. Poi la visita del Papa al Quirinale, un appello alla concordia, questo è il titolo del Corriere della Sera, ma anche altri giornali aprono su questo, come Avvenire, amore e dialogo per l'Italia, oppure Il Secolo XIX, il Papa inutilitario al Colle per parlare di povertà. Ah, che bella quell'immagine del Papa, io l'ho messa sul mio profilo Twitter, Alino Milan, andate a vederla, il Papa che incrocia un bus turistico di Roma con la gente attaccata al vetro, ma è il Papa questo, inutilitaria, bellissima quell'immagine. Anche il Quotidiano Nazionale apre su questo, siamo nelle mani di Dio, e c'è la foto del Papa e di Napolitano. Il caso Cancellieri che si riapre dopo le rivelazioni di nuove telefonate ieri da Repubblica, e la Repubblica apre proprio su questo, le bugie della Cancellieri, e il Fatto Quotidiano, sfiducia Cancellieri, i contorcimenti del PD. La Stampa invece, prima casa, niente tassa per l'80%. Il Messaggero, seconde case e negozi, più tasse. Mentre il manifesto, la grande evasione, i dati dell'economia che abbiamo sentito dicono che i dipendenti guadagnano di più dei titolari di imprese, Libero, pensioni si cambia ancora. Il Giornale, a rischio le pensioni, quindi titolo anche questo sulle pensioni. Però voglio prima, anche se è venerdì, sembra che facciano apposta, il venerdì mettono le notizie di quelle che ci fanno tenere le mani strette sul volante o appoggiare le tazzine del caffè bollente, perché sennò rischiamo di ustionarci. E quindi io ve le devo leggere, soprattutto il venerdì, perché sembra fare apposta per rovinarci il weekend, ma non è così, però io ve le devo leggere. Allora, l'Italia degli sprechi, pagina 11 del Giornale, Paolo Bracalini e Vittorio Bacioce raccontano di Montecitorio, dunque la camera che si fa la proloco. Spesi 6 milioni in chiacchiere. La Camera dei Deputati in 3 anni butta via una cifra stellare per organizzare una miriade di eventi, per la precisione 543 micro manifestazioni, dai libri degli amici ai convegni sulle parole libere. Scrive il Giornale, per favore non chiamate la cultura. Se qualcuno vi raccontasse che c'è una proloco che spende 2 milioni di euro l'anno, 6 milioni in 3 anni, quale reazione avreste? La più immediata istintiva è sbarrare gli occhi, non ci credo. Qualcuno che ha pagato le tasse invece comincerà a sacramentare in aramaico, in goto. E questo è la proloco. E cosa fa questa proloco? Ecco alcune delle iniziative: presentazioni di libri, convegni, tavole rotonde, una giornata sul tema verità e riconciliazione nelle primavere arabe, un'altra sul metafisico interrogativo parole libere o parole d'odio, o l'anteprima di qualche film, un concerto di Natale sulla coralità di montagna, un paio di mostre di pittura, una di fotografia, piedi, scarpe, bagagli. Questo è il titolo. C'è pure un premio letterario. Scommettiamo si inventeranno anche una bella sagra di paese. E che cos'è questa? La proloco di Montecitorio. È la Camera dei Deputati, quella che dovrebbe fare le leggi, controllare il governo delle larghe intese. È tutto certificato. Il pubblico di questi eventi in genere catacombale, basta andarci un pomeriggio d'inverno e si resta depressi per una settimana. Eccolo qui, 2 milioni di euro il giornale racconta spesi da questa sorta di proloco della Camera che organizza eventi, scrive il giornale, per lo più inutili e per amici degli amici o convegni dai titoli improbabili. Com'è la mostra? Il titolo della mostra? Piedi, scarpe, bagagli. Voilà. E tenetele sempre strette le mani sul volante se state guidando, soprattutto di due macchine. Dice, come si fa a avere due macchine contemporaneamente? Succede, secondo il Fatto Quotidiano, succede per esempio al presidente della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, e sono due auto non normali, ma due auto blu. Ebbene sì, Emiliano Liuzzi sul Fatto, e siamo a pagina 10, racconta Errani e le due auto blu a disposizione. La Guardia di Finanza che sta indagando sull'uso dei veicoli della regione Emilia-Romagna, il governatore risponde, sentite la risposta, un'auto blu da presidente e l'altra da consigliere regionale. Effettivamente, 4 mandati e 3 auto blu dalle parti di Viale Aldo Moro a Bologna, sede della regione Emilia-Romagna, lo chiamano Mister Longevità. È ai piani alti da quando aveva i calzoncini corti. Per la quarta volta dopo aver fatto il vice di Bersani, Vasco Errani guida la regione che fu rossa e oggi è renziana da 10 stagioni. Si indaga sui viaggi di auto, un caso singolare. Il presidente, in quanto tale, ha una vettura a disposizione 365 giorni all'anno con due autisti che si alternano e oltre 100.000 euro di spesa pubblica. Ma tra il 2010 e il 2011, dunque per 2 anni, Errani ha fatto pesare sul gruppo, dunque sulla regione, altri 20.000 euro per un secondo noleggio, questa volta in veste di consigliere. E i magistrati, allora, che da mesi spulciano sui conti dei partiti, hanno chiesto alla Guardia di Finanza se su quell'auto salisse Errani o qualcun altro per lui o mandato da lui. Aspettiamo una risposta, fan sapere, ma Errani da parte sua ha già risposto così: una cosa sono gli impegni da presidente, un'altra cosa quelli da consigliere regionale del gruppo PD. Altra cosa ancora, dunque, e dunque altra auto, scrive il Fatto Quotidiano, gli impegni di partito. Ma che vuol dire? Cioè, siccome mi sposto come presidente, mi sposto come consigliere, ho a disposizione due macchine diverse. Questa sarebbe la spiegazione di Vasco Errani. Vabbè, chiudo prima della pubblicità con questa notizia. C'è un nuovo VIP che è finito nelle maglie del fisco e ha dei guai da giustificare, in questo caso con la Procura di Milano, con il pool di Gerardo Greco. Si tratta di Vanessa Incontrada, raccontano i giornali, il Libero lo mette in prima pagina. Dopo la vicenda di Cacà, indagata anche la Incontrada, lo stesso PM dell'avviso al fuoriclasse del Milan, apre un fascicolo sulla showgirl. Sarebbero 83.000 gli euro sotto la lente di ingrandimento. Furbetta di un'Incontrada, scrive Libero, una bacchettata dolorosa quella inferta ieri dalla Procura di Milano alla popolare showgirl, di recente tornata a vestire i panni d'attrice. Francesco Greco ha trovato poco divertente il tentativo di Vanessa di nascondere al fisco 83.000 euro. Questa è l'accusa del suo ufficio arrivata dopo la chiusura delle indagini. Ora Vanessa Incontrada ha tempo per spiegare, non dovesse riuscire a spiegare, potrebbe scattare il procedimento e trasformarsi in imputazione. Vabbè, problemi col fisco. Chi non ne ha avuti? Andiamo alla pubblicità. 24 mattino. Allora, dal punto di vista politico due sono le notizie. Una continua sempre il Popolo della Libertà, ormai siamo alla vigilia di quello che potrebbe essere l'implosione, la scissione, ma poi è tornata prepotentemente alla ribalta la vicenda Cancellieri, le telefonate tra il Ministro della Giustizia e i membri della famiglia Ligresti. Ieri il Repubblica ha rivelato che ci sarebbero altre telefonate mute, nel senso che per il momento si sa solo che ci sono stati dei contatti telefonici, ma non si sanno i contenuti di queste telefonate, soprattutto anche tra il marito di Anna Maria Cancellieri, Antonino Ligresti. Questo ha fatto riscoppiare il caso. Si riapre il caso Cancellieri, titola pagina 14 il Sole 24 Ore con Filomena Greco. Con i tabulati delle telefonate dei membri della famiglia Ligresti, che sono appunto nuovamente sotto l'attenzione e soprattutto il PD, che è molto diviso, con Pippo Civati che chiede che il gruppo del PD voti settimana prossima, mercoledì 20 novembre, quando si voterà la mozione di sfiducia richiesta dal Movimento 5 Stelle. Pippo Civati dice io sono per la sfiducia e chiede a Matteo Renzi, che ha a disposizione diverse, una larga schiera di deputati, di votare anche per lui per la sfiducia. Poco fa il direttore della Padania, Aurora Lussana, alle 6.30 ci ha già detto che anche la Lega ha già deciso voterà per la sfiducia ad Anna Maria Cancellieri. E dunque ecco che il pallino è in mano agli esponenti del Partito Democratico, ed ecco che questa vicenda diventerà la notizia politica della prossima settimana. Repubblica insiste e mette in prima pagina le bugie della Cancellieri. Il velo di Maia cade a terra, scrivono Paolo Griseri e Ottavia Giustetti in prima pagina. I tabulati scoperchiano una realtà ben diversa da quella che Anna Maria Cancellieri ha raccontato a PM e Parlamento. La frequenza, la tempistica delle telefonate tra il ministro, suo marito e i Ligresti raccontano di un rapporto continuo che dal giorno dell'arresto della famiglia di faccendieri milanesi si infittisce. Tra il 17 luglio e il 21 agosto, per 3 volte il ministro della giustizia alza la cornetta e chiama i familiari degli amici sotto inchiesta, e tra il 17 luglio e la prima settimana di agosto, nella fase decisiva per decidere sulla permanenza in carcere di Giulia Ligresti, il marito del ministro Cancellieri, Sebastiano Peluso, chiama per ben 6 volte lo zio di Giulia, Antonino. Solo nei prossimi giorni si capirà se e in quante occasioni alle telefonate tra Sebastiano Peluso e Antonino Ligresti è seguita immediatamente una chiamata tra il marito del ministro e gli uffici della moglie. Quel che è chiaro, scrive ancora Repubblica, è che la tesi della telefonata di solidarietà umana verso una famiglia di vecchi amici caduta in disgrazia non regge più. E insomma, capite che ce n'è per rimettere nel centro della tempesta mediatica e politica il ministro della giustizia, che ieri era in assoluto silenzio, ma ha fatto sapere ai suoi: sono assolutamente, non ho nulla da temere. Ieri Giulia Ligresti invece è stata intervistata da Bruno Vespa durante Porta a Porta e ha detto: mi dispiace umanamente moltissimo se per causa mia Anna Maria Cancellieri si trovi in difficoltà politiche. C'è il retroscena di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, pagina 8. Si sente in trappola Anna Maria Cancellieri, stretta tra un rapporto di amicizia ultra trentennale e un distillato di intercettazioni e tabulati telefonici che fa riemergere sospetti di interventi quantomeno inopportuni. Soprattutto le viene rovesciata addosso l'accusa di avere mentito a magistrati e Parlamento quando affermò di aver fatto solo 2 conversazioni coi parenti degli arrestati. Io non ho mentito, ha detto ai suoi più stretti collaboratori ieri il ministro. Quella conversazione del 21 agosto non me la ricordavo e non me la ricordo. Io con Nino Ligresti ci parlo spessissimo, è un mio amico ed è il mio medico di fiducia. A parte il colloquio con la compagna di Ligresti e quella con Nino, che mi segnalava i rischi per l'incolumità della nipote Giulia, non me ne sono più occupata. Ma insomma, torna a dire, se però il vero obiettivo di questo accanimento non sono io ma il governo, e per questo, se vogliono, me ne vado, ma non accetto né accetterò mai il sospetto che io abbia brigato in favore di qualcuno. Questo no. Insomma, si difende così, ma questa vicenda tornerà di strettissima attualità. Così come pare che ci siano pressioni sempre più alte anche nei confronti del ministro Saccomanni. Il ministro costretto al volo di linea, titola Marco, con Marco Gorra, Libero, a pagina 7. Letta sarebbe furibondo col ministro dell'economia che per andare a Bruxelles, invece di partire con un volo di linea, a come si prescrive per tutti i ministri, ha preso un aereo blu. Questo 2 giorni fa. E anche il Fatto Quotidiano racconta che le pressioni su Saccomanni, che sarebbe stato addirittura visto da un lettore di Libero parlare al ristorante contro Berlusconi. Ecco, il Fatto Quotidiano racconta, a pagina 3, Saccomanni sempre più a rischio. Con la scusa dei commenti su Berlusconi, il PDL vuol sostituirlo pensando a un rimpasto. L'articolo di Stefano Feltri e Emanuele Lentini, e si racconta di una posizione politica di Fabrizio Saccomanni che diventa sempre più complicata. Complicata, a dir poco, è anche la vicenda. vicenda del Popolo della Libertà, che titola Il Sole 24 Ore, a pagina 15, a un passo dalla spaccatura. E qui sono tutto un profluvio di retroscena, di che succederà domani, cene con Alfano, pranzi con Fitto, ricevimenti coi falchetti, riunioni con le colombe. Beh, voi capite bene che lo sfogo che Francesco Verderami sul Corriere della Sera attribuisce a Berlusconi a pagina 6 ed è codesto: se avessi il passaporto me ne andrei ad Antigua. E beh, come non condividerlo? Insomma, pensate voi, cari ascoltatori, il pranzo con Fitto, il bivacco serale di Alfano, le riunioni coi falchetti, le colombe, le colombine e le pitonesse, effettivamente... Chiunque, anche colui che ha la corazza più dura, non penserebbe altro che fuggire il più lontano possibile. Comunque, il cavaliere, se avessi il passaporto me ne andrei ad Antigua. Questo è il titolo di pagina 6 del Corriere, è il retroscena più interessante, anche forse più informato, come spesso accade con quelli a firma Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Berlusconi, questa è l'aggiunta di questa frase, diceva di voler cambiare aria non tanto per le questioni giudiziarie, ma proprio per non sopportare quello a cui deve assistere in queste ore. I retroscena sono tantissimi, ma guardate, ogni giorno sono gli stessi, sempre vicini o alla rottura o no. C'è un'intervista a Nunzia De Girolamo, ministro dell'agricoltura, che parla però non di agricoltura ma dei rapporti all'interno del PDL sul Corriere della Sera, pagina 5, parla di ormai di distanze enormi tra i due gruppi, i cosiddetti lealisti a Berlusconi e invece i cosiddetti, non so, colombe, quelli lealisti al governo. Tra noi distanze enormi, Silvio vuole l'unità, ma chissà come andrà a finire, bisogna aspettare solo 24 ore. Anche se il coniglio nel cilindro Berlusconi pare averlo trovato in... udite udite, Adriano Galliani. Ebbene sì, si toglierebbe due piccioni, prenderebbe due piccioni con una fava, cioè se lo toglierebbe dalle scatole per la vicenda Barbara Berlusconi e rapporti col Milan, e lo metterebbe nella nuova Forza Italia. Ora Forza Italia ha l'allenatore Adriano Galliani, così Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano a pagina 6. Dopo le tensioni con Barbara, il dirigente è pronto da passare dal Milan al partito, e sarebbe pronto per Galliani anche già un seggio alle prossime elezioni o le europee della prossima primavera, o chissà se si dovesse andare a votare, dovesse cadere il governo, comunque alla prossima legislatura. Vabbè, questa è la situazione politica, ma Mauro Meazza, che sarà buongiorno, contento per i successi di Adriano Galliani, almeno futuri in politica. Non so, ma se serve un allenatore per i giovani falchi, ci sarebbe anche Stramaccioni libero, che aveva fatto bene, vero, con la primavera nostra. È vero, potrebbe essere questo. Falchi e i falchetti sarebbero. Infatti pensavo a lui per quello, insomma, aveva fatto molto bene con la primavera, un po' meno bene con la prima squadra, ma insomma può capitare. Senti, sul Sole 24 Ore oggi l'apertura è dedicata ad Alitalia, un dossier, come dire, aperto. Sì, perché i francesi, hai visto, insomma, c'era da... Tu non è che hai 2 euro per Alitalia. Sì, io ho sempre 2, decidete dove, ma sono sempre 2. Guarda, pensiamoci ancora un momento, però adesso i francesi non vogliono metterci appunto il denaro per ricapitalizzare, vediamo come va a finire. In realtà nel servizio di Mussanè a pagina 3 poi si spiegano, France spiega, insomma, no, non intendiamo rompere il partenariato, però insomma vogliamo vedere i conti, non siamo convinti, il piano industriale non ci convince, c'è troppo indebitamento, eccetera eccetera. Probabilmente si arriverà a una composizione, ma ci vorranno ancora dei mesi, non sarà una cosa molto semplice. Allora, del caso, non sarà semplice la vicenda dei conti INPS, qualche pagina più avanti. Infatti c'è questo balletto. Ieri Mastrapasqua ha detto prima i conti INPS non si capisce se reggono, poi ha fatto una parziale retromarcia, per tranquillizzare anche. Abbiamo tutta una pagina per, come dire, tranquillizzare gli ascoltatori e i lettori, perché chiaramente non è che il pagamento delle pensioni sia a rischio, però ci sono state delle cose successe negli ultimi 2 anni, ad esempio l'acquisizione dell'INPS, che stanno mettendo a dura prova i conti dell'INPS. Certamente. Se poi invece tu parlavi prima di destinazioni straniere per onorevoli senatori o ex presidenti del Consiglio uscenti, non ho capito bene, ma volevo dirti, Galimberti ha intervistato il primo ministro del Liechtenstein. a proposito di destinazioni, come dire, favorevoli ai capitali, che però dice firmiamo la convenzione OCSE, quella sullo scambio di informazioni, quindi diventano più trasparenti. Ecco, insomma, dopo la Svizzera anche questo paese si apre. Sì, fanno, alzano il velo, come si dice, sui conti stranieri, così come lo alzano, lo raccontiamo poche pagine prima, il Ministero dell'Economia e il Dipartimento delle Finanze, che ci racconta finalmente quanto sono i capitali dichiarati all'estero. Dichiarati, sono 35 miliardi, ci sono fuori 35 miliardi. 35 miliardi, quelli dichiarati, quelli ufficiali. Quelli, insomma, di cui abbiamo contezza perché li abbiamo visti nelle dichiarazioni dei redditi. No, ma certo, insomma, queste altre notizie sul sole. Allora io, Mauro, ti ringrazio, ti do l'appuntamento a lunedì prossimo, ovviamente buon weekend. Anche e, a voi. E che dire, c'è un'altra cifra da cui ripartiremo dopo le informazioni sul traffico, è una cifra che ha fatto molto discutere, sta facendo discutere, la fa sobbalzare molti, e cioè questa. Il reddito medio dei dipendenti in Italia è di 20.680 euro, il reddito medio dei piccoli imprenditori è di 20.469 euro. Ma come? Questa dichiarazione del 2011, quindi dati IRPEF del 2012, ma come, si dice, i dipendenti che guadagnano più dei datori di lavoro? Ecco, su questo si è innestata una polemica da cui ripartiremo dopo il traffico. Allora, la cifra è questa che fa sobbalzare molti: i dipendenti, reddito a 20.680 euro su dichiarazione del 2011, reddito medio ovviamente 20.680, datore di lavoro 20.469. Ecco che ovviamente dà la stura a vari titoli come il titolo di Repubblica, nell'Italia dell'evasione, lavoratori dipendenti più ricchi degli imprenditori. Oppure dipendenti battono imprenditori sui redditi, il paradosso sospetto, questo è il titolo di Avvenire a pagina 5. O ancora il Manifesto a pagina 4, ma com'è ricco il dipendente. Interessante invece l'analisi che Dario Di Vico fa sul Corriere della Sera, pagina 12. Dipendenti più ricchi degli imprenditori, la strana classifica dei redditi. Ma scrive Di Vico, sicuri che sia tutta evasione fiscale? Il confronto sottostima infatti la crisi. Scrive Di Vico, il reddito medio degli imprenditori risente moltissimo degli anni della recessione. Intanto l'aggregato statistico dei datori di lavoro è decisamente più ridotto, 2,8 milioni tra ditte individuali e soci di società di persone contro i 21 milioni dei dipendenti. E poi si tratta di risultati fortissimamente condizionati dal mercato. Moltissime aziende hanno chiuso nell'annus horribilis 2012. Molte altre hanno visto ridursi drasticamente il fatturato e gli utili e sono andate a influenzare pesantemente la media, creando un paragone che risulta asimmetrico. Per farla breve, mentre i redditi dei dipendenti sembrano da questi dati poco influenzati dalla crisi, i risultati d'impresa lo sono stati moltissimo. Basta pensare a ciò che è successo nella filiera dell'edilizia, quella a cui appartiene il maggior numero di piccole imprese, ma anche alla moria di aziende che ha colpito altri settori. È evidente però, scrive Di Vico, che i dati riferiti agli imprenditori sono influenzati anche da un maggior ricorso all'evasione fiscale, che tutto ciò finisce per creare un mix perverso tra effetti della recessione e sottrazione di gettito. Per cui, conclude, ben vengano i dati elaborati dai tecnici del Ministero, ma i responsabili potrebbero utilmente commentarli e fornire all'opinione pubblica una traccia di lettura come fa l'Istat. Un paese matura anche così. Questo Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Vabbè, il graffio di Iena su questo è: ma gli imprenditori sono ricchi dentro. Così Iena sulla Stampa a pagina 3 dal titolo Redditi. A proposito di redditi, ma di altro tipo, c'è un'interessante intervista al vice ministro dell'economia Stefano Fassina, che è intervistato da Roberto Ciccarelli sul Manifesto, lancia e risponde alla proposta con una apertura per il reddito cosiddetto di cittadinanza, o meglio il reddito garantito. Proviamo a partire dalle grandi città. Questo dice Fassina, e cioè ecco l'impegno: Incominciamo a entrare nel merito, formiamo un gruppo di lavoro con chi vuol partecipare, facciamo una mappatura delle risorse necessarie e disponibili. L'obiettivo mi sembra condiviso, come governo siamo disponibili ad avviare sperimentazioni nelle maggiori città italiane. Durerà il tempo necessario se siamo convinti sulla necessità di dare un reddito ma anche opportunità di lavoro. Insomma, c'è la mia piena disponibilità a ragionare su tutte le voci di bilancio che si intendono coinvolgere. Insomma, è la prima apertura alla proposta, soprattutto portata avanti dal Movimento 5 Stelle, viene dal vice ministro all'economia Fassina. Proviamo il reddito minimo nelle grandi città. Sono Movimento 5 Stelle, SEL, ma anche alcuni del PD che hanno lanciato questa proposta. Una notizia di cronaca che farà molto discutere e che c'è solo sul Corriere della Sera in prima pagina: una bimba di 3 anni è stata data in affido temporaneo dal Tribunale dei Minori di Bologna a una coppia omosessuale, 2 uomini. La notizia, pagina 21, Amelia Esposito: nella città che nel lontano 82 concesse prima in Italia un'associazione gay, all'associazione gay una sede ufficiale, oggi in questa stessa città, Bologna, il tribunale minorile concede in affidamento temporaneo una bambina di 3 anni a una coppia omosessuale. Ha deciso il tribunale presieduto dal giudice Giuseppe Spadaro. La coppia affidataria non vive a Bologna ma in un'altra città. È una coppia di 2 uomini, mezza età, un lavoro e un buon reddito, convivono da tempo, coppia stabile e affidabile secondo i servizi sociali, che hanno espresso dunque parere favorevole al provvedimento. La protagonista invece è una bambina di 3 anni che vive a Bologna e conosce bene i 2 gay, tanto a chiamarli spesso zii, pur non essendoci alcun legame di parentela con loro. Questa constatazione è stata la base della scelta del Tribunale dei Minori di Bologna sulla decisione dell'affidamento, che non è l'adozione. L'adozione recide il legame con i genitori naturali, l'affidamento temporaneo invece no, perché il minorenne spesso continua a frequentare durante questo affidamento i minori. Ma certo farà discutere la bimba di 3 anni in affido temporaneo a 2 omosessuali. Va bene, siamo al momento conclusivo, siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Chiudiamo la settimana di questo premio, la carta costa, affidandolo a Libero con Marianna Baroli, oggi a pagina 22. Se vedete delle persone camminare per strada, cari italiani nelle città, non pensate che stiano andando magari a fare delle commesse, delle compere. No, potrebbe essere il trekking urbano. Questo è il titolo di questo articolo di Libero. A piedi e in gruppo per riscoprire le nostre città, un fenomeno che sta diventando uno stile di vita. Pensate, gente che cammina per la città, uno stile di vita. Camminare, camminare, camminare, avanzare coi piedi ben piantati per terra, si chiama trekking urbano. Io pensavo che fosse andare alla posta, invece trekking urbano, o andare a fare la spesa, no, trekking urbano, che non è il vagabondare liberamente alla ricerca di spunti. E scrive Libero: tutti possono essere trekker urbani, basta aver voglia di camminare e scoprire qualcosa. E certo, se uno cammina, magari sta andando un po' affannato a prendere il metro, la metro, l'autobus, magari invece no. Non dite sto andando a prendere l'autobus e magari non lo prendo. No, fate i fighi. Sono un trekker urbano, sto facendo trekking urbano, e vedrete come vi sentirete meglio e sorriderete alla vita. Ma dai, amici di Libero, insomma, ricordatevi, la carta costa. Questo è l'appello che vi dico sempre, lo dico a tutti per la verità, ma nessuno capisce. Giornale Radio.